Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, ce n'è abbastanza, tra Telecom con le inchieste della magistratura, ma è ancora in corso per quello che riguarda Telecom l'assemblea degli azionisti, che deve pronunciarsi sulla proposta di rimozione dell'attuale consiglio di amministrazione chiesta da uno dei soci di minoranza, Marco Fossati, che possiede il 5% del gruppo. Ma Telecom in questo momento è un caso anche politico, inutile nascondersi dietro un dito, perché ne ha parlato anche il Premier Letta da Bruxelles. Che cosa è successo? Insomma, l'accusa di fondo è che il governo abbia, lo avete letto oggi, abbia avvantaggiato gli interessi di alcuni azionisti che volevano uscire dal pacchetto di Telco. Telco è la società che controlla Telecom Italia, ne ha il 22,5%, e di Telco fanno parte, oltre agli spagnoli di Telefonica, anche Mediobanca, Intesa San Paolo e Generali. Non è un mistero, perché più volte lo hanno detto i loro vertici, che le tre volessero uscire da Telecom Italia. E allora il sospetto, l'accusa, è che il governo abbia avallato gli interessi di Generali, di Intesa San Paolo e di Mediobanca ad uscire da Telecom Italia o dalla controllante Telco, perché dando la possibilità agli spagnoli di salire e quindi di trasformare Telecom Italia in una controllata spagnola. E in tutto questo, sullo sfondo, anche il non via libera al progetto di riforma della legge sulle offerte pubbliche di acquisto, quella che obbliga, quando superi una certa quota, il 30%, a lanciare un'offerta su tutto il resto per tutelare i piccoli azionisti. Dicevo, la proposta avanzata dal deputato del PD Massimo Mucchetti di cambiare, modificare la legge sull'OPA, introducendo la clausola del controllo di fatto, perché cosa succede in Telecom Italia? Che Telco ne ha solo il 22%, quindi chi controlla Telco non è obbligato a lanciare un'OPA, perché è sotto il 30% la quota di Telco. Però di fatto, quando tu hai un azionista che ha il 22,5% e gli altri hanno tutti, a parte Fossati, pochi altri, BlackRock per esempio, che ha appena acquistato il 5,5% del capitale di Telco, ma tutti gli altri hanno quote dello 0,00 qualcosa, è ovvio che chi ha il 22% è l'azionista di riferimento. Questo voleva essere l'intento della riforma della legge sull'OPA, che non è passata. E questo anche al di là delle indagini della Procura di Roma sull'esistenza di una possibile intesa tra i maggiori azionisti di Telecom per favorire l'ascesa della spagnola Telefonica ed eludere i controlli della Consob. La stessa Procura però ha precisato che in relazione all'inchiesta non vi sono indagati per il reato di ostacolo alla vigilanza né per alcun altro reato. Su questo, visto che ne parleremo dopo, però possiamo far ascoltare il Premier Enrico Letta, che da Bruxelles ha risposto alle accuse di dire sostanzialmente il governo ha parteggiato per le Generali, per Mediobanca e per Intesa San Paolo. C'è, da più parti si legge questa critica, un governo molto più sensibile alle ragioni delle banche che delle imprese, vuoi anche per le quote in Banca d'Italia, adesso non possiamo entrare anche su questo dettaglio, però che abbia creato dei vantaggi al mondo bancario più che, diciamo, al mondo produttivo. Non è una polemica che in questo momento tratteremo, né che mi interessa particolarmente, senza altri elementi. Quello che è certo però è la risposta del Premier Letta, che dice il governo non parteggia per nessuno dei giocatori. Telecom Italia è una società privata ed esistono delle regole di mercato che vanno rispettate, perché noi siamo un paese che vuole attrarre investimenti e il cui mercato è aperto a investitori nazionali, a investitori esteri. E quindi ritengo che dobbiamo partire da questa considerazione. Telecom Italia è una società privata, la rete è un asset strategico per il paese, ancorché privato. E quindi io ritengo che la linea che il governo ha tenuto fino adesso, e che qui ribadisco, il governo non parteggia per nessuno dei giocatori in campo. Per nessuno dei giocatori in campo. E quindi io ritengo che nemmeno il Parlamento debba fare norme che aiutino un giocatore contro l'altro. Non abbiamo dubbi per non credere al Presidente del Consiglio Enrico Letta, facciamo solo notare che nel passato la storia di Telecom in realtà è purtroppo la storia di un continuo rapporto con il governo e con la politica, dal governo di centrosinistra Massimo D'Alema, i capitani coraggiosi, il non voto quando c'era la scalata di Colaninno, al governo di centrodestra e all'arrivo di Marco Tronchetti Provera, insomma i rapporti tra Telecom Italia e il governo vi sono sempre stati. Ci auguriamo che appunto abbia ragione il Premier Letta, che questa volta non sia avvenuto così. Dire che è una semplice società privata è un po' riduttivo, infatti poi lo stesso Letta cita il fatto della rete, perché il controllo e la proprietà della rete è un'altra cosa. E faccio notare che poi alle parole di Letta si sono aggiunte anche quelle del ministro Zanonato, che a maggio di un convegno su Expo 2015 ha detto: Telecom è una società privata, non è dello Stato, lasciamola lavorare. Bene, spero che però il ministro Zanonato, con massimo rispetto, si sia ravveduto da quella dichiarazione che aveva reso nel giorno stesso dell'operazione spagnola su Telecom, quando disse: ma non è vero che Telecom è spagnola, lo ricorderete, l'abbiamo mandato in onda decine di volte, non è vero che Telecom è spagnola, ha solo il controllo telefonica di Telco. Ecco, Telecom è spagnola, se l'operazione andrà in porto è sempre più spagnola, quindi su questo non ci sono dubbi. Poi che sia una società privata va benissimo, però si può anche riflettere sull'OPA in generale e se ha un senso continuare a controllare alcune società con il gioco delle scatole cinesi, tagliando fuori de facto tutti i piccoli azionisti. Il tema, voglio dire, c'è al di là di Telecom. Ma ci occuperemo anche di Europa, perché al di là della fine del vertice Ecofin, Eurogruppo, l'Unione Bancaria, oggi, che doveva essere una giornata un po' celebrativa, in realtà è arrivato con una doccia fredda il giudizio dell'agenzia di rating Standard & Poor's, che ha abbassato il voto sul debito a lungo termine dell'Unione Europea da AAA a AA+. Molte le reazioni, siamo in disaccordo, dice la Commissione Europea, il Presidente dell'Unione Europea Van Rompuy ha detto: questo abbassamento del voto non ci rovinerà il Natale. E a proposito di Natale, ci spostiamo all'Italia, dove l'Associazione delle Banche Italiane fa notare come il credito resterà negativo anche nel 2014, gli impieghi delle banche saranno in ripresa solo nel 2015, anche perché resteranno alte le sofferenze bancarie. Però oggi, mentre si continua a discutere in Italia di legge di stabilità, e dopo che è arrivata la fiducia alla Camera sulla legge di stabilità, continua Confindustria a premere sul governo reputando la manovra insufficiente. Anche i comuni hanno alzato la voce contro i tagli, si sono appellati a Napolitano e Enrico Letta ha detto: tutti chiedono tutto, ma la somma di tutti vuol dire la bancarotta dello Stato italiano. Ognuno ha caricato delle aspettative, ma io non voglio far correre al paese dei rischi, siamo in un mare tempestoso. E perché citavo il Natale? Perché Letta poi ha detto: non serve Babbo Natale, ma un buon padre di famiglia. Il downgrading di Standard & Poor's è la dimostrazione, ripeto, che l'Europa e noi siamo tutti ancora sotto osservazioni, e quindi è assolutamente necessario mantenere la prudenza del buon padre di famiglia. Lo dico a tutti coloro che in Italia vorrebbero che invece del buon padre di famiglia ci fosse Babbo Natale. No, non ci aspettiamo Babbo Natale, neanche però diciamo la Befana con il carbone, visto che Letta si sta lanciando in queste settimane in vari in vari esempi figurati, ecco, molti hanno la sensazione che pur non avendo fatto niente di male arriverà il carbone sotto l'albero o diciamo o dentro la scopa o nel sacco della scopa. Babbo Natale qua non lo vede nessuno, casomai Babbo Morto, ma Babbo Natale proprio non interessa nessuno. E ancora sul gioco d'azzardo il Premier Letta ha ammesso che c'è stato un errore nel governo e quindi che il governo ha intenzione di rimediare. Su questo ha detto proprio esplicitamente Letta: ha ragione Renzi. Sapete qual era stata la polemica? Il governo aveva fatto sparire una norma per, o meglio, ha vincolato alcuni aiuti ai comuni a patto che non limitassero, diciamo, le slot machine, come si chiamano in gergo. È sembrato quantomeno singolare. Ora nessuno ce l'ha con le slot machine in senso stretto, perché poi nella vita uno se vuole rovinarsi può rovinarsi come vuole in uno stato libero. Però legare le risorse che lo Stato dà ai comuni al non ostacolo alla presenza delle slot machine in un territorio ci è sembrato troppo, e lo riconosce lo stesso Premier Letta. Assolutamente condiviso quello che Renzi ha detto ieri sulla norma sul gioco d'azzardo. È stato un errore, a questo errore il governo ha intenzione di rimediare rispetto a quella norma che è sbagliata. Aggiungo sul tema del gioco d'azzardo, delle dipendenze da gioco d'azzardo, siamo talmente convinti che sia necessario un'azione molto netta e molto forte da parte delle istituzioni che nei prossimi giorni c'è già uno stato avanzato. Il governo presenterà un piano d'azione contro le ludopatie e contro le dipendenze dal gioco d'azzardo. Quindi cambio di rotta e consapevolezza del fatto che, insomma, come per altre cose assolutamente legali, penso all'alcol, penso al fumo, però un conto è dire che sono legali, un conto è dire che fanno bene, che non c'è nessun problema, che non creino problemi sul territorio o il loro abuso non crei problemi. Andiamo avanti perché ancora due notizie e poi un applauso, perché un applauso glielo dobbiamo dare a Marianna Madia. Arriviamo tra un attimo però su questo. L'Alitalia, consiglio di amministrazione di Alitalia convocato già da questa mattina per ratificare la riuscita dell'aumento di capitale, che è già un primo successo, cioè Alitalia ha i soldi per andare avanti. Altri sviluppi sulla compagnia di Abu Dhabi Etihad: punterebbe il 49%. La compagnia degli Emirati Arabi, che ieri sera ha confermato le trattative. Il ministro Lupi ha rivelato anche altri hanno manifestato interesse per la compagnia. E poi Gabriele Del Torchio, al termine del consiglio di amministrazione, ha aggiunto: speriamo che il 2014 sia l'anno del rilancio. Soddisfatto chiaramente sull'aumento di capitale che è andato a buon fine. Quanto alle alleanze, ha detto: ci sono varie ipotesi per allearsi con un partner internazionale, stiamo lavorando col massimo impegno, le alleanze sono fondamentali e Etihad è all'attenzione di tutti i giornali e presto per qualunque commento. Una buona notizia arriva da Prada, perché ha riportato in Italia le società di controllo, le holding come si chiamano in gergo, basate finora in Olanda e in Lussemburgo. In accordo con l'Agenzia delle Entrate sono tornate nel nostro paese e Miuccia Prada con Patrizio Bertelli hanno commentato: è una decisione coerente con la nostra volontà di investire in Italia. La borsa più 0,60% Milano, più 0,50% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,30% Londra, più 0,50% gli Stati Uniti, quindi Milano assolutamente in linea. Monte dei Paschi, ne parleremo del Monte dei Paschi perché insomma è ancora braccio di ferro con la fondazione, però il titolo continua a beneficiare dell'accordo con Deutsche Bank per il derivato su Santorini, quello è il centro anche dell'inchiesta. Praticamente il Monte dei Paschi ha chiuso la pratica prima del previsto, risparmiandoci. Monte dei Paschi più 4,60%, CNH più 4%, Diassorin più 3,80%, World Duty Free più 3,60%, Finmeccanica più 3,20%, Media 7 più 2,70%, Intesa San Paolo più 2,30, Mediobanca più 1,90 come stima Microelectronics, la Pop Milano più 1,80, Fiat più 1,70, Azimut più 1,5. Chi è negativo? A2A meno 2,55, GTEC meno 1,50, Banco Popolare meno 1,15. E allora, adesso ancora due notizie, anzi una notizia, poi passiamo subito alla banca centrale, alla banca, a Bruxelles e a Standard & Poor's. La notizia riguarda, ci fa anche quasi un po' di tenerezza, oggi non abbiamo notizie particolari, una volta tanto respiriamo sugli scandali, gli sprechi, l'utilizzo cattivo delle gestioni della risorsa, della cosa pubblica. Però insomma è particolarmente divertente quello che è successo ieri a Marianna Madia, che è la delegata al lavoro della squadra di Matteo Renzi, della nuova segreteria del PD, perché doveva andare in via Veneto per incontrare il ministro Enrico Giovannini, ministro al lavoro, nostro ospite parecchie volte, ma ha confuso, non si capisce se l'ufficio, l'edificio, la persona fisica, penso proprio di no, ma insomma l'ha confuso strada facendo con il ministro allo sviluppo economico Flavio Zanonato, e dopo un colloquio a questo punto esilarante che è andato avanti un bel po', Zanonato si è accorto che della confusione fatta dalla Madia e le ha detto: cara Marianna, sono contento del vigore e dell'entusiasmo con il quale mi chiedi supporto, ma di questo avresti dovuto parlare con il collega ministro del lavoro Enrico Giovannini. Le mie competenze non sono quelle destinate alle politiche dell'occupazione. E lei ha chiesto a quel punto: ma scusa ministro, non sei tu che ti occupi di lavoro? Ed è rimasta pietrificata la risposta negativa. Allora, ci fa tenerezza la Madia, anche perché io la ricordo dire, quando fu candidata, che la terra respirava, insomma. Però no, visto che lei è giovane ed è importante che i giovani dimostrino che l'età è irrilevante, perché quando uno ha le competenze le ha da giovane o da vecchio, quando uno non le ha da giovane o da vecchio. Però investiamo molto sui giovani, mi raccomando. Lei poi si è giustificata dicendo: ho solo sbagliato indirizzo, ministero del lavoro dall'altra parte. Ho capito, non è che proprio funzioni così nella vita, confondo i due ministeri seppali di politica e del lavoro. Madia, lasciamo respirare la terra, mettiamo bene la testa sulle cose. Il nostro invito è questo, con un pizzico anche di simpatia, perché è una gaffa così da matricola, solo che lei tanto matricola non è, mi raccomando. Zanonato è uno, sono anche diversi fisicamente, oltre che avere diverse competenze, hanno diversi accenti. Zanonato è di Padova, un accento veneto, e invece il ministro Giovannini è di Roma, un accento più romano. Glielo dico così, la prossima volta riesce anche a indirizzarsi. Da Marianna Madia e la terra che respira a invece l'Europa che soffre e sospira, perché nel giorno in cui bisognava fare una bella conferenza stampa per celebrare quanto bravi erano stati i leader europei a trovare l'accordo sull'unione bancaria, è arrivata l'agenzia di rating Standard & Poor's a rovinare le uova nel paniere. La dimostrazione che la transizione non è finita e che l'Europa e l'euro sono ancora sotto osservazione, ed è la dimostrazione che c'è bisogno di molta attenzione, molta prudenza, e che le scelte che bisogna fare a livello europeo e a livello degli Stati membri devono essere scelte determinate a raggiungere gli obiettivi, ma scelte che siano attenti a non rovinare, a non sciupare i risultati raggiunti fino adesso. Allora, mentre vedo che al 349-238-6666 stanno già arrivando i vostri messaggi, poi anche sulla pagina di Focus Economia su Facebook, c'è chi continua a chiedermi da ieri come facciamo a calcolare i 190 miliardi di evasione. Sono i dati che diffonde l'Istat da un lato, il Ministero dell'Economia dall'altro, la Banca d'Italia. Questo è il calcolo dell'evasione, non di quanto non arriva allo Stato come gettito, ma dell'imponibile che viene evaso, 190 miliardi. Ma non si arrabbi, insomma, la cifra purtroppo è sempre quella, è lei che l'ha capita male in questi anni. La cifra dell'evasione fiscale italiana, da quando ce ne occupiamo, oscilla tra i 120, 150, 190 miliardi di euro. Chiaramente anche quello è un valore nominale, quindi cresce di anno in anno. Se non c'è un contrasto vero all'evasione, subisce anche lei l'inflazione, no? Però la cifra non è molto diversa da quella diffusa negli scorsi anni. La Madia non ci fa tenerezza, ci preoccupa. Vabbè, diamole una seconda chance, è giovane. No, io avrei voluto esserci nel colloquio per la facilizzare un attimo, dopo 10 minuti che la Madia gli parla delle questioni del lavoro e resta sorpresa che non se ne occupi lui. Madia, Madia. Allora, Sergio Nava da Bruxelles, buonasera al nostro inviato a Bruxelles, buonasera Sergio. Buonasera. Che ha fatto anche una bellissima intervista, oggi ripresa anche da Sole 24 Ore, al commissario europeo Barnier. Dunque, quanto ha rovinato, abbiamo appena sentito Letta dire, beh, in effetti bisogna stare attenti, quanto ha rovinato la festa Standard & Poor's oggi? Ma diciamo che l'ha rovinata in parte, se vogliamo, anche perché Letta è stato forse quello un po' più preoccupato, un po' più quello che ha posto l'accento sulle conseguenze di questo declassamento. Di fatto Standard & Poor's dice c'è il timore che in qualche modo il bilancio europeo non possa essere ben alimentato dalle quote nazionali, il famoso bilancio settennale. Letta, attenzione, comunque è una valutazione di un'agenzia di rating, mentre invece Hollande ha detto non ci saranno conseguenze, Farron poi ha detto non ci rovinerà il Natale, lo farà poi il presidente europeo. Bisogna anche dire che effettivamente, insomma, un retrogusto politico questa decisione ce l'ha, perché la guerra scatenata, neanche poi così tanto combattuta, ma alla fine il confronto avviato dall'Unione Europea, in particolare dalla Commissione Europea, con l'agenzia di rating è da un po' che si trascina, e alla fine forse quale migliore occasione che dopo il giorno dopo l'unione bancaria fare un bel declassamento. Sì, io non sono mai stato tenero sull'agenzia di rating, e nemmeno questa volta, perché mi chiariscono, perché poi tra l'altro io non capisco, adesso con massimo rispetto, come si faccia ad avere tutte queste certezze sul rating di lungo termine, anche perché l'outlook è stabile, cioè le prospettive sono stabili, ma nel lungo termine saremo tutti morti. Spiegatelo anche a Standard & Poor's, non è questo il punto. Ho citato Keynes, ripreso da Galbraith, se vado a memoria corretta, però dico, dopodiché anche Standard & Poor's, finché non mi chiarisce come sono le esposizioni dei suoi soci, che sono anche fondi di investimento molto importanti in America, nei confronti dell'euro e del dollaro, dove si sono posizionati con i loro investimenti, mi dispiace, il conflitto di interessi resta tutto. Poi non mi può raccontare che tanto i soci non intervengono mai, però non è che in America proprio le cose vadano sempre in maniera diversa rispetto all'Italia. Io non ci credo, troppe toppe hanno preso, e troppe volte sono intervenute tardi, con dei pregiudizi non spiegati, con atteggiamento insomma di quello che arriva quando i giochi sono già fatti. Detto ciò, andiamo sulle cose serie. Michel Barnier, intervista che appunto pubblicata integralmente oggi su Sole 24 Ore, tu hai raggiunto ieri in serata, è il commissario europeo al mercato interno. E 37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, nessuno ce l'ha con la Madia, anzi ha ragione chi dice se la stessa cosa, cioè sbagliare ministero e ministro, soprattutto confondendo Zanonato con Giovannini, l'avesse fatto qualcuno del Movimento 5 Stelle, l'avreste massacrato. Non lo so, intanto l'abbiamo citata. E attenzione, ma siamo tutti d'accordo che un conto sia sbagliare il ministero e il ministro, e un conto sia falsificare e sbagliare la nota spesa, non scherziamo nemmeno su questo. Però siccome a me sta esaltazione dei giovani che sono sempre meglio, pur essendo io non così vecchio, questo possiamo dirlo, non mi ha mai convinto tanto. Uno è mona da giovane, mona da vecchio, è sveglio da giovane, sveglio anche da vecchio, casomai con la vecchiaia è peggiori forse. Però insomma, stia attenta anche alla malattia, si prepari, lasci la terra respirare. Invece Sergio Nava, torniamo sui temi nostri. Il mercato, il commissario del mercato interno Barnier, tu gli hai chiesto in primo luogo, diciamo, se sono possibili dei miglioramenti a questa unione bancaria che ci metterà 10 anni a essere finalmente operativa, con il fondo insufficiente per salvare le eventuali banche che dovessero fare crack. Questo accordo può essere ancora migliorato e semplificato. Il lavoro che comincerà ora con il Parlamento europeo è molto importante. Occorrerà prestare attenzione alle posizioni dell'Europarlamento, che ha una visione diversa, più vicina in realtà alla mia proposta iniziale. Occorrerà infine un accordo nell'ambito della triade Parlamento, Commissione e Consiglio. Il faudra maintenant réussir le trilogue entre le Parlement européen, le Conseil des ministres e la Commission européenne. Questo quindi, diciamo, un aspetto dei miglioramenti possibili. Sergio Nava, altri punti della tua intervista a Barnier riguardavano anche il periodo di transizione e poi le banche italiane, Sergio? Sì, sicuramente il periodo di transizione è stato uno dei punti che abbiamo affrontato, insomma, più ampiamente, anche perché non era ben chiaro, poi Barnier ce lo ha spiegato, cosa accadrà nei 10 anni precedenti alla piena entrata in vigore di questo fondo di risoluzione. Chi paga se fallisce una banca? Sentiamo allora cosa ha risposto Barnier. Ce qui a été décidé par les ministres des finances cette nuit, et j'étais avec eux. I ministri delle finanze hanno deciso un fondo comune di risoluzione che sarà costituito progressivamente, a partire da compartimenti nazionali. Le banche italiane pagheranno una certa somma a un compartimento italiano, quelle francesi a uno francese e così via. Questo fondo sarà progressivamente mutualizzato anno dopo anno, fino a quando, dopo 10 anni, si costituirà un vero e proprio fondo unico europeo. Se in un certo momento però non fosse sufficiente il denaro in giacenza nel fondo, nel caso di una crisi improvvisa, questi compartimenti nazionali potranno prestare denaro tra di loro. Se anche questo non fosse sufficiente, potranno chiedere prestiti all'esterno con la garanzia dei rispettivi governi. Ma l'obiettivo resta un fondo comune nell'arco di un decennio. Mais progressivement nous allons bien avoir un fonds commun sur une dizaine d'années. Questo era appunto il commissario europeo al mercato interno Michel Barnier per quanto riguarda il periodo di transizione. Abbiamo chiesto a Michel Barnier anche di commentare lo stato delle banche italiane, qual è a suo parere lo stato dei nostri istituti di credito, se li considera solidi oppure no. Sentiamo. Je n'ai pas les éléments pour juger, et c'est précisément cette photographie. Non ho gli elementi per giudicare oggi. Dobbiamo attendere la fotografia che ne farà l'autorità europea delle banche e la BCE. Ciò ci permetterà di conoscere la verità sulle banche europee e noi abbiamo interesse a conoscere la verità. Ci permetterà di conoscere la verità e noi abbiamo interesse a conoscere la verità. Sergio Nava, così appunto commissario europeo, ti chiedo un'ultima nota. Ma la reazione di Hollande, Merkel al giudizio di Standard & Poor's, perché sai, noi ci siamo abituati a beccarci le rampogne e i giudizi negativi, i tedeschi meno. Ma se, diciamo che in qualche modo probabilmente hanno voluto minimizzare anche in tono polemico. Se prendiamo che so il Berger e il Rupo, il premier Berger e il Rupo ha detto, beh, sono gli stessi che dicevano che andava tutto bene prima di Lehman Brothers, no? Hanno cercato di sgonfiare un po' la cosa. Effettivamente non è stato un regalo di Natale gradito, su questo non ci piove, però è anche vero che la crisi finanziaria in qualche modo ha un po' danneggiato la reputazione stessa delle tre grandi sorelle del rating, e di conseguenza i politici ora dicono, beh, stiamo facendo il nostro dovere, stiamo facendo i compiti pure, insomma, tra qualche pasticcio, questo lo aggiungo io, però non, le cose stanno migliorando. Sì, tra l'altro devo dire una cosa per inciso, che per carità l'Europa avrà tantissimi problemi, ma se andiamo a vedere come sono messi i conti di altri paesi, allora non so cosa dovrebbe dire Standard & Poor's, che pure ha abbassato il giudizio sull'America. Cosa dovrebbe dire sulla sostenibilità del deficit americano nel medio e lungo termine? Non lo so, mi chiedo. Comunque, grazie al nostro Sergio Nava in collegamento con noi da Bruxelles, e noi dal tema unione bancaria, giudizio severo dell'agenzia di Standard & Poor's sul debito europeo. Passiamo adesso alla finanza, inteso come borsa, ma anche Telecom Italia. Barisoni, lei comincia con le sue frecciatine sarcastiche contro la galassia renziana nel tipico stile anti-PD di Radio 24. Non le fa onore. Ma che te sei fumato? Tipico stile PD, anti-PD di Radio 24, vabbè. Beh. Cioè, se la Madia sbaglia un ministero, confonde un ministro con un altro, lei che ha la delega sul lavoro, che è il tema, come Renzi ha detto giustamente, al centro dell'agenda del paese, e lei appunto nella squadra di Renzi ha la delega sul lavoro, noi sorridiamo, no? Però lo possiamo dire, se no ha ragione chi scrive e dice siete più duri con altri, con i 5 Stelle che col PD. Dai, ha fatto una gaffa, una cappellata incredibile, perfino Zanonato l'ha detto, cara mia, l'ha trattata come una ragazzina. Allora, l'indirizzo dei ministeri è importante, le facce dei ministri sono importanti, le deleghe sono importanti, basta. Cosa abbiamo fatto contro la galassia renziana nel tipico stile anti-PD di Radio 24? Spero almeno che fosse roba buona. Allora, la borsa più 0,60% Milano, più 0,40% Parigi, più 0,70% Francoforte, più 0,20% Londra, l'America mezzo punto percentuale di rialzo. A2A negativa del 2,60%, bene invece soprattutto il Monte dei Paschi, che guadagna il 5%, poi World Duty Free più 4,5%, CNH più 4,40%, Diasorin più 3,20%, Finmeccanica più 2,80%, Mediaset più 2,60%, Mediobanca più 2%, come la Popolare di Milano, ST Microelectronics più 1,80%, come Intesa San Paolo, Azimut più 1,70%, Fiat più 1,5%, Autogrill più 1,30%. Miglior titolo Invest più 16,40%, poi Poligrafici Editoriale più 9,60%, Beghelli più 5,80%, Stefane più 5,70%, peggior titolo KR Energy meno 5,20%, e poi poco altro, Sacom meno 4%. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Paolo, Milano in linea assolutamente con le altre borse, tra l'altro oggi sono usciti dei dati molto buoni sul PIL americano nel terzo trimestre, più 4%, che insomma confermano la crescita a stelle strisce. Monte dei Paschi. Sì, oggi appunto diciamo che gli listini hanno festeggiato proprio quel dato sul PIL e hanno chiuso in positivo la terza seduta consecutiva, nonostante oggi fosse la scadenza delle tre streghe, quindi dei contratti su futures, indici e azioni, e quindi la volatilità rischiasse di come dire, dominare l'intera giornata. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi di Siena, nuovo rally dopo quello di ieri, più 4,95 oggi dopo la chiusura dell'operazione Santorini con Deutsche Bank. È una chiusura che porterà un impatto negativo quest'anno, ma impatti positivi negli anni successivi, quindi il mercato ha salutato positivamente proprio la chiusura di questa operazione, che di recente aveva un po', era una di quelle che aveva portato MPS nella bufera. Rito per i messaggi degli ascoltatori. Allora Paolo Paronetto, al di là del Monte dei Paschi, bene anche le altre banche, dicevamo, e quindi Pop Milano intesa, però c'è World Duty Free che guadagna il 4,5%, E poi andrei subito su Telecom, perché oggi è la giornata di Telecom, obiettivamente, non solo per la vicenda politica ma anche per il resto, e poi andrei subito a Telecom Italia. Se mi dai un accenno anche a Beghelli mi fai contento, adesso mi accontento di poco, diciamo. Vai. Allora, quanto riguarda World Duty Free, in questo caso è il giudizio positivo di Goldman Sachs, in particolare le stime sull'andamento dei ricavi che sono previsti in accelerazione l'anno prossimo, e la banca d'affari ha inserito il titolo nella sua lista dei titoli da comprare e ha fissato un obiettivo di prezzo a 12,2 euro, quindi molto alto, visto che adesso oggi il World Duty Free ha chiuso appena sopra i 9 euro, a 9,065. E per quanto riguarda, allora facciamo di corsa a Beghelli, che è stato uno dei migliori titoli al di fuori del paniere principale, ha guadagnato il 5,8%. La società oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo di riscadenziamento del debito con la maggioranza delle banche creditrici, e quindi di fatto si è sbloccata la trattativa sul debito, e quindi viene vista questa come una possibilità di ripresa del business tradizionale della società, senza doversi preoccupare di questioni finanziarie. Naturalmente oggi tutti gli occhi sono puntati su Telecom Italia nel giorno dell'assemblea straordinaria, si attende a breve, a momenti, l'esito del voto sulla revoca del CDA. Il titolo è stato positivo per gran parte della seduta, poi ha frenato un po' sul finale, ha chiuso più o meno in linea con l'indice a più 0,43%. Più 0,43%, andrebbe citata, beh, citiamola anche bene, Mediaset di nuovo sull'effetto spagnolo, no? L'accordo con la Pay TV spagnola, esatto, sempre del gruppo Mediaset, l'integrazione dell'attività nella Pay TV in Italia e in Spagna, la possibile apertura a nuovi soci nel settore, la possibile anche alleanza con Telefonica nella Pay TV spagnola. Mm-hmm. Dopo le rally di ieri, anche oggi il titolo è salito del 2,6%. Notizie su Impregilo? Ma al momento nulla di nuovo. No, nel senso che c'è un ascoltatore che mi sta massacrando dall'inizio della trasmissione. Commentami in pregiro, chiedo se c'è qualche notizia particolare su... Beh, c'è quella della Vito, l'accusato di tentata estorsione in pregiro, certo. Ma per quanto riguarda l'andamento in borsa... Cioè, la Vitola è la Vitola, la borsa è la borsa... o la borsa o la vitola di dire, vabbè, dai, oggi andiamo oggi svacchiamo. Comunque c'è qualcuno che scrive invece: lei è stato troppo morbido con la Madia in tipico stile pro PD di Radio 24, così mi ha fatto felici tutti quanti. Ancora nell'attesa di Telecom Italia, perché l'assemblea è ancora in corso, abbiamo dei problemi col collegamento, devo dire adesso seriamente. Per quello che riguarda invece altri titoli, CNH Industria più 4,43, si è mossa Fiat bene oggi complessivamente, Paolo? Sì, in generale molti titoli industriali oggi hanno fatto segnare buone prestazioni. Fiat 1,54, meglio ancora CNH più 4,4. Oggi tra le grandi industrie anche Finmeccanica è andata molto bene, più 2,84. In questo caso c'è la notizia, cioè la società ha festeggiato il contratto ottenuto dalla controllata Augusta Westland, che è un contratto da oltre 1 miliardo per la fornitura di 16 elicotteri alla Norvegia. Quindi in questo caso la notizia è di un ordine in arrivo che ha sostenuto la società. E poi ST Microelectronics che recupera dopo l'abbassamento del giudizio di ieri, più 1,85%. Su Popolare di Milano forse vale la pena ricordare, Paolo, l'assemblea dei nuovi soci, dei nuovi vertici, scusatemi. Certo, domani è l'appuntamento che per chi segue IPM è atteso ormai da tante settimane. C'è l'assemblea straordinaria che dovrà eleggere il nuovo consiglio di sorveglianza. Il titolo oggi, e sono già 2 giorni che sale, oggi ha guadagnato l'1,95% sotto i riflettori proprio per questa attesa. Ricordiamo che si confrontano 2 liste, quella guidata da Piero Lonardi, storico consigliere di minoranza della banca, che cerca di fare il grande passo e approdare alla presidenza, e quella guidata da Piero Giarda, sostenuto dai sindacati del credito. Naturalmente da chi vincerà dipenderà poi la scelta del consiglio di gestione, e quindi di chi guiderà operativamente la banca nel prossimo triennio. Grazie a Paolo Paronetto e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Cori Sole 24 Ore. Telecom Italia, in corso l'assemblea, ma sta parlando Fossati in questi istanti. Abbiamo il tempo per far sentire Letta su Telecom Italia? Mi fate segno di no. E va bene, allora andiamo sul GR e poi andremo su Telecom Italia. Fossati è l'azionista col 5% che ha chiesto appunto di cambiare i vertici di Telecom Italia dopo quello che è successo nella vicenda telefonica. L'accusa è di avere regalato, favorito la cessione di Telecom agli spagnoli di Telefonica, già presenti nell'azionariato. Perché? Perché i tre soci italiani volevano uscire, non volevano più star dentro: Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco, ripeto, è ancora in corso l'assemblea degli azionisti di Telecom Italia e da quello che capiamo dovrebbe essere da poco terminato l'intervento dell'azionista Fossati, quello che ha chiesto appunto che venissero cambiati i vertici dell'assemblea di Telecom Italia, perché ritiene insomma che non abbiano garantito gli azionisti, la compagnia, nell'operazione che ha visto poi di fatto Telecom, o vede di fatto Telecom, diventare spagnola. E cercheremo anche di fare un collegamento più avanti. Vorrei però adesso tornare sul tema del insomma, botta e risposta di ieri tra il presidente di Confindustria Squinzi e il premier Enrico Letta, ma soprattutto sulla delusione delle imprese per una finanziaria, e non solo delle imprese, devo dire, per una finanziaria che al di là delle risorse non dà un indirizzo. Io la chiamo legge finanziaria perché poi con l'assalto alla dirigenza che c'è stato si configura più come una legge finanziaria che come una legge di stabilità, però che ha poche, non solo risorse, ma anche poche indicazioni di indirizzo, le concentra poco su alcuni interventi. L'accusa è quella di avere in qualche modo fatto un'operazione a pioggia, e insomma, e sul cuneo fiscale sappiamo come è andata a finire. Il fondo che dovrebbe essere rimpinguato dalla lotta all'evasione fiscale e anche dal spending review è un fondo che in realtà è già svuotato, perché poi dovrà occuparsi anche di altre cose. Ne vorrei parlare però per dare anche un elemento di concretezza di quello che possono fare le imprese da un lato, e non deve fare il governo, non può fare il governo, e quello che può fare invece il governo, con chi ha lanciato due giorni fa un piano strategico articolato in 50 progetti per 3 anni per Milano. Si chiama Fare Volare Milano, è il progetto di Assolombarda per rilanciare le imprese e il territorio, con l'idea che Milano possa essere il volano anche per altre parti del paese, con 4 capitoli: imprese al centro, Milano al centro, Assolombarda al centro, l'Expo, la grande occasione. E quindi ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, per capire poi come, che cosa voglia dire anche una politica industriale del paese. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Lei appunto presiede l'associazione più importante, perché raggruppa 5.000 imprese e ha rappresentanza di 282.000 dipendenti, oltre che essere il presidente di uno dei più bei gruppi italiani nel settore privato. Avete un giro d'affari di quasi 25 miliardi di euro. Mi riferisco alle varie società in cui operate in tutto il mondo: Tenaris, Tenova, Humanitas e quant'altro. Siete tra i leader mondiali nella produzione di tubi d'acciaio con Tenaris, e siete anche quotati a Piazza Affari con 18 miliardi circa di capitalizzazione. Quindi nel doppio aspetto di presidente di Assolombarda e presidente di un gruppo grande per essere in Italia, le chiedo in primo luogo, quello che disorienta, per quello che vediamo noi molto gli ascoltatori, è da un lato un'idea di ripresa che poi viene contestata per esempio dagli industriali, dal presidente Squinzi, ma anche dal Centro Studi di Confindustria, e si dice attenzione a promettere una ripresa che non porterà occupazione e che per le cifre che avrà sarà più una fine della recessione che una ripresa vera e propria. E quindi si chiede alla politica anche semanticamente di essere più corretta, cioè smettere di generare illusioni. Non sono dei bambini i cittadini, gli si può dire anche la verità, basta non illuderli. Dall'altro, quello che attraversa, pesa come senso di smarrimento, non è l'idea di un sacrificio ulteriore, a mio avviso, ma è l'idea di non sapere perché si fanno questi sacrifici, cioè che tipo di politica industriale, detta in tutti i modi, tu hai per questo paese. Ora, è sembrato che in questa legge di stabilità, che avrebbe dovuto essere diversa dalla finanziaria perché non vi sarebbe dovuto essere l'assalto alla diligenza, invece sia stata una finanziaria della serie. Le poche risorse non si sono concentrate su un'azione specifica, ma sono state distribuite a pioggia anche come effetto della pressione di vari emendamenti e quindi della pressione delle varie lobby. Lei, da cittadino, oltre che da imprenditore, da presidente di Confindustria, che sensazione ha derivato? Io derivo la sensazione che il paese non riesce a prendere in mano il proprio destino in modo strutturale, cioè noi abbiamo bisogno di cambi profondi e in primis almeno tutti quei cambi che non sono legati alla finanza, cioè sburocratizzazione, riforma legislativa, riforma dell'organizzazione dello Stato, riforma della politica, tutto questo non si fa e viene rimandato, quindi è l'occasione perduta. La legge di stabilità finisce per concentrarsi sulla risorsa più scarsa che ha il paese, cioè il denaro. Finché non si toccano le uscite, tutto questo lavorio di sindacati, di lobby, finisce per scaricarsi sulla risorsa più scarsa del paese, quindi è veramente una guerra dei polli di Renzi. Anche i polli di Renzi non era male. Anche quella di polli di Renzi non era male. E quindi e questo è il contesto che noi viviamo, soprattutto chi lavora nel mondo. Allora, in questo contesto noi dobbiamo tornare, e in questo contesto cosa avviene? Questa è una ripresa, non ripresa, questo è uno spianamento in una condizione estremamente depressa, perché noi siamo in una condizione depressa e sicuramente senza creazione di posti di lavoro. E questo è il motore della sfiducia. Perché noi se la sfiducia è poi il motore per i consumi, i contratti, e quindi siamo in una situazione di stallo. Cosa fare in una situazione di stallo? È urgentissimo intervenire. Io anche nella presentazione che ho fatto del nostro piano ho detto che mi auguro che scendano in campo in politica dei giovani leoni che mostrino di essere profondamente mossi da uno spirito rivoluzionario di cambiamento, perché se qui rimaniamo in questa sensazione di incapacità di cambiare, la cosa diventa veramente preoccupante e le ferite si prolungano nel tempo. Il piano che noi abbiamo proposto è in fondo fatto da 50 mattoni, come dicevo, di un tempio strategico, misurabili nell'avanzamento, quindi c'è un metodo diverso, non è il piano strategico, sono 50 o 45 iniziative verso l'esterno, tutte misurabili e tutte indicativamente seguibili, che dovrebbero catalizzare la voglia di riscatto, diciamo almeno di una prima regione, che se vola volano anche le altre, perché senza una voglia di riscatto e aspettando che dalla finanza arrivi la soluzione, in questo momento non è da lì che io penso che arriveranno le cose. E quindi dobbiamo assolutamente metterci in moto su altri piani, costruire noi stessi il futuro, perché se lo aspettiamo che ce lo faccia il governo e che ce lo faccia, certo, deve liberarci le energie. e 16 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte dell'ultima puntata della settimana, in realtà poi c'è anche domani il meglio di Focus Economia, però con il presidente di Assolombarda e del colosso in vari settori Techint. Dunque, mi tolgo una curiosità, Rocca, però è una cosa che veramente non capisco, sta diventando un'ossessione. Allora, i soldi sono pochi e vabbè, e questo lo sappiamo, non è colpa di Letta, andrebbe rinegoziata anche una certa Europa, ma non è questo oggi il tema. Però io non capisco veramente, cioè non riesco a comprendere perché ci sia una fortissima resistenza in sto paese a fare leggi e riforme, visto che tutti evocano le riforme, a costo zero. Visto che parliamo di imprese, l'abbiamo chiamata la Bassanini per le imprese, chiamatela come volete, cioè semplificazione totale dei vincoli burocratici per aprire un'attività, e non sto parlando solo di imprese manifatturiere, parlo anche di altro, parlo di imprese artigiane, di imprese dei servizi, di imprese del mondo del commercio, per cui tu apri, a parte alcuni controlli necessari preliminari, apri l'impresa, poi mandi gli ispettori che vanno a verificare se la tua autocertificazione è corretta. Se hai mentito hai anche un aggravio di pena, come avviene per l'autocertificazione per i cittadini, Però intanto parti, non ci metti tre volte il tempo che in Spagna, cinque volte il tempo che in Gran Bretagna. Ma lei si è mai chiesto perché non si riesca a fare una riforma così apparentemente di buon senso e a costo zero? Io credo che perché si sia creata un connubio, un intreccio drammatico fra politica e burocrazia. La politica viene interpretata come svolgere un ruolo di potere, cioè poter dire sì e no a qualcuno. E quindi la politica sta seduta bene su una situazione in cui deve continuamente dare permessi, opinioni, cioè si sente grata per il fatto che dei poveri cittadini, delle povere imprese devono andare a pietire qualcosa. La burocrazia in tutto questo si è moltiplicata in un intreccio drammatico e quindi a sua volta difende delle prerogative che diventano il loro stesso status, l'identità, cioè essere in grado di gestire questo. E su questo si inserisce la giustizia. La giustizia deve interpretare per esempio 3.000 pagine del codice fiscale, 3.000 pagine del codice del lavoro. Questo vuol dire incertezza del diritto, interpretazione a seconda dei livelli. Quindi noi abbiamo creato un intreccio pazzesco fra burocrazia, politica, giustizia. Affrontare questo argomento è effettivamente un qualcosa che non è che si faccia con un puro tratto di penna. Richiede una volontà assoluta, fra l'altro, di implementazione, perché io ho visto riforme di tutti i tipi che arrivate al momento dell'esecuzione si scopre che hanno avuto un impatto inverso. Quindi le scorciatoie che uno pensa di dire non sono così semplici, per questo occorre una determinazione assoluta. Mancando una determinazione assoluta noi continuiamo ad intrecciarci. Però è la testa dei cittadini che ha qualche, in questo senso, va anche cambiata, perché noi diamo l'autonomia talora alle università, alle regioni, ma poi per siccome qualcuno l'ha usata male, la riempiamo di lacci e laccioli, per cui anche le università migliori non possono scegliersi i propri professori, non possono. Questo meccanismo dell'autonomia sfiduciata, che è costosissimo, ma che oltretutto deresponsabilizza tutti, è il cuore del problema italiano. O la affrontiamo per le corna, ecco, è chiaro che non possiamo fermarci perché qualcuno usa male le cose, quindi lei ha ragione nel tema dell'autocertificazione, dobbiamo prendere il coraggio di sapere che se diamo l'autocertificazione qualcuno la userà male. Sì, però qui a mio avviso c'è anche un problema di consapevolezza che l'imprenditore, così come il cittadino, per definizione sono onesti. Ecco da dove nasceva l'autocertificazione della Bassanini, cioè, certo. Io tendo a essere onesto, soprattutto se ho delle pene sanzionatorie che sono aggravate dall'eventuale falsa testimonianza e falsa autocertificazione. Per quindi cui bisogna accettare il coraggio, però, che se qualcuno, poi ci sarà qualcuno che ovviamente che la usa tanto male, ma a quel punto non bisogna tornare indietro. Mm-hmm. Cioè qui il problema è che se noi il primo che si comporta male fa sì che scatti l'opinione pubblica del paese, la politica, cioè dobbiamo toglierla a tutti perché avete visto come hanno utilizzato la loro autonomia. Questa è un difetto mentale. Ecco, su questo vorrei far ascoltare cosa ha detto oggi il ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, sì, che ha detto sostanzialmente il problema è più che altro delle imprese, della loro scarsa competitività. Confindustria sta facendo, aggiungo io, il sindacato, ma comunque si fa portavoce delle piccole e medie imprese che hanno problemi, mentre ce ne sono tante altre capaci di competere sui mercati internazionali, e sono quelle l'esempio da seguire. Credo che la Confindustria in questa fase soprattutto si fa portavoce delle piccole imprese che hanno obiettivamente dei problemi seri di competitività sul mercato globale, sono imprese che operano essenzialmente sul mercato interno che, come tutti sanno, ha avuto un lungo periodo di stagnazione. Io credo che ci sono peraltro importanti imprese italiane che si sono già dimostrate capaci di competere sul mercato internazionale, che sono capaci di fare profitti, di guadagnare quote di mercato, e forse sarebbe bene che, parlando dei problemi dell'industria italiana, si dicesse a tutti che l'esempio da seguire è quello delle imprese che hanno migliorato la loro competitività, la loro profittabilità. Con il che, diciamo, non nego l'esigenza dei problemi delle piccole imprese, abbiamo proprio nella legge finanziaria inserito nuovi strumenti, fondi di garanzia proprio per i prestiti alle piccole imprese, abbiamo anche inserito strumenti per favorire l'aumento di capitale nelle piccole imprese, perché uno dei problemi che le piccole imprese hanno nell'accesso al credito è che spesso non hanno una base di capitale sufficiente. Allora, Presidente Rocca, visto che lei è presidente di un gruppo da 25 miliardi di euro con 60.000 dipendenti, ma è anche presidente di Assolombarda, si sente più rappresentante, secondo la definizione del ministro Saccomanni, delle imprese che sanno competere sui mercati o di quelle che hanno problemi di competitività? Ma io prima di tutto non concordo minimamente in questa rappresentazione del sistema italiano, nel senso che l'Italia ha sicuramente un settore che esporta moltissimo, è uno dei paesi industriali più forti in termini di esportazione, in 235 prodotti è il primo al mondo, ha una bilancia di pagamenti commerciali su questi prodotti di 63 miliardi attiva, è secondo in 390, in 1200 prodotti è meglio della Germania, quindi però anche queste imprese di successo, quando si va a vedere il prezzo che pagano in termini di burocrazia e in termini di tassazione e in termini di interessi, hanno uno svantaggio competitivo sistemico nei confronti dei concorrenti. Quindi questo è un tema che non può essere lasciato semplicemente dicendo no, sono i piccoli che soffrono. Fra l'altro la catena italiana, è chiaro che un paese che punta soltanto all'esportazione con l'idea e la premessa che il mercato interno scompaia e che quindi tutti gli artigiani, i professionisti debbano diventare dei piccoli molecoli di competitività del mondo è illusorio, non esiste in natura. Quindi e anche i medi e i piccoli sono all'interno di una catena del valore dove ci sono i medi che trascinano i piccoli in un mercato, in un quadro internazionale. Già noi esportiamo, la Lombardia esporta il 40% del suo prodotto lordo. È un po' come dire dobbiamo diventare un paese che esporta il 70%, esportiamo talenti, i nostri giovani vanno all'estero. Se non riprende in qualche modo fiducia sul mercato interno, è difficile immaginare che il paese possa soltanto sull'esterno, e sull'esterno compete. Sull'esterno dimostra di saper competere e lo fa attraverso un export che in questo momento è più alto del picco che abbiamo raggiunto nel 2007-2008. Quindi è l'analisi che secondo me è carente. Se non riesce anche la politica e tutti noi a dare il senso che riprendiamo in mano la sburocratizzazione, la semplificazione politica, è chiaro che il cittadino non riprende fiducia, è aumentato il risparmio, la gente non spende i propri risparmi perché non ha certezza di lavoro e di futuro. Quindi è un circuito che deve autoalimentarsi, ma l'idea di poter dire che è così semplice il problema, così come viene rappresentato che ci sono delle piccole imprese, noi abbiamo le piccole imprese che esportano l'80% del loro fatturato, quando si va a vedere la relazione fra esportazione e dimensione si scoprono delle statistiche totalmente sorprendenti. Grazie al presidente della Assolombarda, oltre che del gruppo Techint, Gianfelice Rocca, in bocca al lupo ai suoi associati e ai dipendenti anche dei suoi associati. Grazie mille, buonasera. Com'è la testa di chi sta seguendo da più di 7 ore l'assemblea di Telecom Italia, quella in cui si stanno scontrando gli azionisti di minoranza, affossati per tutti, con i principali azionisti raggruppati in Telco, che sono Telefonica, Mediobanca, Generali, Intesa San Paolo. Antonella Olivieri, come va la testa? Pronto? Ciao, sì. Guarda, qui appunto sono 7 ore e mezza, come dicevi tu, di discussioni molto accese e c'è anche ormai un certo nervosismo perché c'è una tensione che si taglia col coltello anche sul palco. E non si è ancora arrivati a votare prima appunto l'ordine del giorno che è anche più importante, cioè la revoca del Consiglio che ha chiesto l'azionista Fossati. E a questo punto considerato che poi c'è anche la parte straordinaria con il voto sulla convertendo, ti portiamo i panini. Scusa, però al di là della battuta, la ricaduta, l'assemblea era prevista perché appunto l'aveva chiesta Fossati, che vuole revocare tutti i vertici perché dice voi siete stati, avete favorito gli spagnoli, se la sintetizzo un po' brutalmente, ma qui il problema è un altro, c'è un'inchiesta anche della Procura di Roma con sottotra... No. Prego, non volevo capire se questa inchiesta è come che eco ha avuto dentro l'assemblea oggi? Sì, ecco, ma diciamo abbastanza poco. In realtà non è un'inchiesta che è piovuta dal cielo, non è un'inchiesta ancora penale. No, è dovuta al fatto che la Consob ha mandato le prime valutazioni con la segnalazione in procura per il problema del conflitto di interessi, che è proprio quello che si sta dibattendo ora in assemblea. Ma è disciplina civilistica, solo che il problema è che l'articolo 2391 del codice civile prevede che in caso di danno provato alla società ci possa essere la reclusione fino addirittura a 3 anni, quindi è un po' a cavallo, diciamo, tra il civile e il penale. Ma la procura è un atto dovuto, ha semplicemente ascoltato l'ex presidente che si è dimesso in polemica con la situazione. Bene, certo. Non ha aperto un'inchiesta penale. No, è vero, è civilistica, hai ragione. Senti Antonella, a questo punto mi sembra di capire chiaramente che l'assemblea è ancora in alto mare, cioè tu probabilmente farai notte, noi ti auguriamo un buon lavoro. Focus Economia termina qui, grazie Antonella Olivieri. Volevamo capire se ci fosse qualche sviluppo, ma mi sembra veramente che si commenti da solo il collegamento con Antonella, che da 7 ore e mezza con toni accesi e ormai animi esasperati. Ve ne daremo atto nei nostri GR. Intanto da Sebastiano Barisoni un ringraziamento come sempre a Mauro Del Con e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, un augurio a voi di un buon fine settimana. Noi ci risentiamo con Focus Economia lunedì dalle 17 in poi.